乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点二十二点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月，请欣赏普契尼的歌剧《燕子》。这部歌剧是奥地利一家的出版商委托普契尼创作的，希望他写成约翰施特劳斯式的轻歌剧。由于普契尼不喜欢轻歌剧的形式，最终完稿时还是写成了一部意大利正歌剧。但歌剧的风格非常轻松，常常采用圆舞曲的节奏，充满了美妙动人的旋律。下面请欣赏著名歌唱家莫夫主演的这部歌剧。 Prende di sorpresa il corona di fina. nessuna, anche Doretta, Doretta, chi sarebbe? La mia nuova eroina, una cara donnina, e fu presa dal mare, e immortala in tal quale, nell'ultima canzone, la vogliamo sentire, ne potreste soffrire, non fatemi pregare. Thank you. adesso non urlatemi. Ripeto, squisita, che arte, che finezza, che valore. Come, anche voi l'uomo pratico. Sono io nel fondo ogni animo, c'è un diavolo romantico che è più forte di me, di voi, di tutti. No, il mio diavolo dorme. Mi armo d'acqua santa e lo sconfiggo. Lo volete vedere? Ecco. A me. Certo. La mia intenzione era d'offrirmelo prima di pranzo. Me ne dimenticai. Ma l'occasione sembra inventata apposta. Fantasia non si turba, ma in verità mi pare che vacilli quella della realtà. Mi pare che vacilli. Passi pure qui. Thank you. Thank you. non partirà. Partirà la nipote? Può darsi, ma qualora essa risponde ai miei gusti d'artista, la donna che conquista deve essere raffinata, elegante, perversa, degna insomma di me. Galatea, Berenice, Francesca, Salome. Non ne ho colpa, non ne ho colpa, son nato per le grandi avventure. Ma come li scoprite tante eventure? Poeta, è semplice, la meta d'ogni donna sta. E qui bellezza e scienza, vi prego serietà, soprano, dite, svelateci, sapriti, anch'io voglio sapere. Ah, Ruggero lassù, fate passare. Venite a Parigi, la prima. A voi la folta contorsione dei segni suggerisce che fulfra più avanti chi più offre la vince su tutti gli aspiranti. Poeta raffinato, dite un po' dove si può mandare un giovinotto che vuol passare la sera allegramente. Al letto. Non scherzate. È verità. La prima serata a Parigi non è che una vana leggenda, è tempo ormai di sfatarla. Thank you. e se troppo insolente avanti dunque indica con la meta ti ringrazio dove tu partiamo dove saremo ci vuole un amore ci vuole un amore che per noi siete come voi un gioia per me non si intona con il resto nove muse a voi perdono se dicendo così in basso l'amo, l'amo e non ragiono. Nove muse a voi perdono. Questo è meglio, originale, che il mantello. Non è tale da strapparmi innovazioni. Vuoi che metta quella cappa che indossavo l'altra sera? Sì, la cappa in seta nera. Nove muse a voi perdono, se mi appasso a consigliarla, ma da esteta quale sono, no, non posso abbandonarla. Sono completa. Sei squisita. La borsetta. Eccola qua. Vuoi rossetto sulle labbra? Il tuo labbro fiorirà. Siamo due rose. Nero gli occhi. Pochi tocchi, pochi tocchi. Ecco. Fatto. Fatto. Là. Che silenzio. Che mistero. Questo cuore chi mi bacia, il labbro mio. Perché bacia di perché? Per ridirti io so. Subito come me. eccolo là. Nella tua anch'io. Ma se mi agito, se correggevo, non conosco di se mi confondo a dar lezione. E quanto voglio? E per rifarti l'educazione. Questo è il mio compito. San Vincenzo, ti ama, non guardo ostacolo. Ti rifarò. Ma se mi agito, se guardo anch'io. Thank you. non è lei, no, no, guarda bene. Sono, non sono la sua cameriera. Lo sei, ma non di lei che non è lei, ma sei da lei, ubriaca sei. La mia vita, Lisette, vuol sapere se un suo consiglio vi portò fortuna. Lo vedete? È carina, volete presentarmela? La mia amica Paulette. Sei convinta, Lisette? Il signore è un poeta, amico d'un amico di mio padre, e quindi amico vostro. Ne son proprio onorato. Che cosa m'ha turbato? Continuate a guardarmi. Non sono a capezzarmi, ma c'è una persona che pare il vostro ritratto. E chi sarebbe? Ma no, la mia padrona. È una sua fissazione. La padrona è carina. Come lei, se lei fosse elegante. Se io fossi elegante, voi elegante lo siete. Ah, non mi costa fatica. È bel cappello, è il suo, ma davvero. Tutto ciò che ha mirato sta tratto abilmente. Che troppo imprudente. No, non ridete. Rido, non so di che cosa. Sarò felice. Siate pietosa. Lisette, non vuoi la sua scelta in vita. Già che il caso ci unisce, inneggiava l'amore. E giova la vita che ci rovò.